2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 4 aprile 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Online trovate tutte le informazioni per abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. E comunque ci sono molte modalità per downloadare il file della nostra trasmissione, per scaricare il file MP3. Naturalmente noi vi consigliamo di abbonarvi al servizio podcast, che vi dà anche la possibilità di aggiornare automaticamente settimana dopo settimana il file della nostra trasmissione. E comunque sia, tutte le informazioni ve le possiamo anche fornire via mail, quindi scriveteci a 2024@radio24.it. Detto questo, alcune notizie della settimana, poi gli argomenti di approfondimento della nostra puntata. Una delle notizie più interessanti della settimana l'ha sparata Robert Murdoch, il proprietario di un impero di mezzi di comunicazione che sempre più deve fare i conti con la crescita della rete internet. Murdoch, lo ricordiamo, è proprietario anche del Wall Street Journal, uno dei pochi giornali americani che fa pagare l'accesso alle proprie notizie sul web. Secondo Murdoch, anche gli altri quotidiani dovranno iniziare a fare lo stesso se vogliono sopravvivere, perché la pubblicità online non basterà a coprire i costi. La gente legge le notizie gratis su internet e questo deve cambiare, ha detto Murdoch parlando al Cable Show, un evento annuale dell'industria della TV via cavo che si è tenuto questa settimana a Washington e di cui si è parlato molto. Ci sono intervenute molte personalità del mondo dell'editoria, della televisione, ma non solo. Murdoch ha indicato come esempio il maggior rivale del Wall Street Journal negli Stati Uniti, ovvero il New York Times. Il Times, dice Murdoch, ha uno dei siti web più famosi tra i quotidiani americani, ma nonostante questo non riesce a coprire i costi con la pubblicità online. Questo è un dibattito acceso da tempo, ma ora lo sta diventando sempre di più, visti i cali spettacolari di pubblicità e anche la crisi di alcuni giornali americani vicini alla bancarotta. Meno gente compra il giornale, c'è meno pubblicità, anche non solo per il calo di lettori, ma anche per la crisi economica. Molte aziende tagliano i budget pubblicitari e quindi tutto ciò crea seri problemi al mondo dell'editoria. Certo, molti si domandano se i lettori siano ora disposti a pagare una cosa che si trova in grande quantità gratis online su internet. Murdoch ha detto che la sua società sta investendo in un apparecchio simile al Kindle di Amazon, ne abbiamo parlato la scorsa settimana se ricordate, e anche al Reader della Sony, ma su un prodotto con uno schermo più grande per permettere la lettura di un giornale. Questi due strumenti, o quelli che abbiamo citato anche la scorsa settimana, sono sostanzialmente degli e-book reader, quindi dei lettori di libri digitali che permettono anche di leggere siti web o una sorta di giornale online creato appositamente per questi strumenti. Quotidiani come il Financial Times o USA Today stanno lavorando con una società che si chiama Plastic Logic, una compagnia che ha sede nello stesso luogo dove ha sede Google, ovvero a Mountain View in California. Questa società sta sviluppando un dispositivo specializzato nella lettura di giornali che dovrebbe essere lanciato all'inizio del prossimo anno. Oltre a dispositivi di visualizzazione c'è anche naturalmente un altro problema, quello dei sistemi di pagamento. Bisognerebbe trovare un modo per rendere semplici ed immediati i micropagamenti online. Su questo ci sono molte società che stanno studiando e investendo. Il settore dei micropagamenti è, lo abbiamo detto più volte, 2024, uno dei settori su cui si punta molto nei prossimi anni. Certo, uno può fare un abbonamento online e in questo caso i sistemi attuali come la carta di credito possono essere una soluzione, ma mentre nella vita reale uno può passare in una edicola, prende fuori un euro e compra un giornale, beh, online, anche se può sembrare strano, le cose sono un po' più complicate perché il pagamento elettronico è ancora un sistema un po' macchinoso. Un'altra notizia riguarda il mondo dei videogiochi, grande successo per Nintendo negli ultimi anni. Più volte questa azienda è stata data per morta dagli analisti finanziari, invece Nintendo ha dimostrato di essere viva più che mai con il grande successo della Wii, battendo la concorrenza sia di Sony che di Microsoft. Beh, da ieri è disponibile un nuovo prodotto in Europa, la nuova DSi, l'ultima console portatile della Nintendo, costa 179 euro, e tra le novità rispetto alla normale DS c'è la macchina fotografica, un registratore audio e un lettore MP3. Questo il succo delle novità, ma naturalmente il prodotto è molto innovativo e quindi online trovate molte informazioni. Non si è ancora bloccata la trattativa, o meglio, non si è ancora sbloccata la trattativa tra IBM e Sun. Per molti l'acquisto di Sun da parte di Big Blue rappresenta la fine di un'era. La notizia sta circolando in rete, molto probabilmente la prossima settimana ci saranno notizie più chiare. Ci sono voci invece su un'altra possibile acquisizione, quella di Twitter da parte di Google, ma qua siamo ancora solamente alle voci di corridoio. Questa settimana è stata la settimana del primo aprile, non abbiamo dato molto spazio agli allarmi lanciati da quasi tutti i produttori di antivirus, o come si dice oggi, delle suite per la sicurezza, allarmi lanciati in occasione appunto del primo aprile. Fino a qualche giorno fa sembrava dovesse scatenarsi una catastrofe digitale, invece, come molti di voi avranno verificato, non è successo nulla. Questo non significa che non ci si debba adeguatamente proteggere online, lo diciamo spesso. Aggiornare i software di qualsiasi genere è una pratica molto utile, e avere anche un sistema antivirus o, come dicono appunto gli esperti, una suite per la sicurezza è sicuramente da consigliare. C'è un'altra notizia che riguarda i browser, cioè i programmi di navigazione su internet. Qualche settimana fa abbiamo dedicato un approfondimento per spiegare il perché c'è tanta attenzione verso questo mondo. Google ha lanciato Chrome recentemente, la Apple continua ad investire sul suo Safari, Opera ha lanciato recentemente alcune novità per il proprio browser, ma soprattutto la battaglia è tra Mozilla e quindi Firefox e Internet Explorer. Dopo molti anni Microsoft ha perso questa settimana la leadership del mercato europeo dei browser. Firefox numero 3 della Mozilla Foundation ha infatti superato Internet Explorer 7. Lo dice, quindi questi sono dati di una società che si chiama StatCounter, secondo cui la settimana che abbiamo appena passato, in questa settimana Firefox deteneva il 35% del mercato europeo, seguito da Internet Explorer 7 al 34,5%. C'è però un motivo, ovvero l'uscita di Internet Explorer numero 8, che è stata annunciata da un paio di settimane, ha determinato uno spostamento di alcuni utenti verso il nuovo browser della Microsoft, e quindi se poi si vanno a sommare i due programmi, la Microsoft è ancora leader del mercato. Va però detto che, sempre secondo StatCounter, Firefox sta colmando il distacco e ora è dietro di soli 10 punti, quindi del 10%, a tutte le versioni di Internet Explorer in Europa. Quindi questa è una tendenza che stiamo avvertendo da qualche tempo. Skype è molto attivo in questo periodo, ha annunciato in settimana la disponibilità del software anche per l'iPhone, quindi con uno smartphone della Apple connesso alla rete potete ora utilizzare anche Skype per fare chiamate o per utilizzare la chat. A maggio arriverà poi Skype per BlackBerry, mentre il servizio è già disponibile per i telefonini Nokia, quindi basati su Symbian, e quelli basati su Android e Windows Mobile. Ci sono già alcune polemiche perché, ad esempio, in Germania T-Mobile, quindi Deutsche Telekom, ha detto non permetteremo, avranno qualche problema gli utenti che vorranno utilizzare Skype su questi telefoni, perché naturalmente Skype utilizza molta banda e se esiste un pacchetto, un abbonamento con un pacchetto dati già compreso, questo può creare problemi al gestore, non ultimo il fatto che poi uno utilizza Skype per fare le telefonate mentre potrebbe e dovrebbe, secondo questi abbonamenti, utilizzare la rete di telefonia mobile. Ma di questo riparleremo in altre occasioni. Adesso parliamo del dibattito che continua sulla libertà di espressione in rete, sulle nuove regole per riformare e ripensare il settore dei diritti digitali. Lawrence Lessig, una vera e propria autorità nel settore, dice da tempo che è necessario proteggere il diritto d'autore, ma che tutto deve essere adeguato all'era digitale. I absolutely believe we need a protection of copyright in the digital age. I think it needs to be updated to the digital age. Questo è Lawrence Lessig intervistato da Alessandro Galimberti, che dice appunto che è necessario trovare un sistema che ricompensi adeguatamente gli artisti per il loro lavoro. But does find a way to give artists reward for their creative work, because otherwise we won't have independent artists. C'è ad esempio chi dice che strutture come la SIAE potrebbero non esistere più in futuro. Una piattaforma di distribuzione di contenuti come iTunes potrebbe benissimo distribuire i diritti ai rispettivi detentori senza bisogno di intermediari, e questo potrebbe ad esempio anche favorire l'abbassamento dei prezzi. Di questo si discute, non è escluso che ne discuteremo anche con alcuni ospiti a 2024 nelle prossime settimane. Intanto però le strade più frequentate sono quelle della repressione della pirateria. In Svezia è entrata in vigore da pochi giorni una legge che rende più facile alla magistratura costringere le società che forniscono i servizi di collegamento ad internet, cioè gli internet service provider, a fornire i dati degli utenti sospettati di violazione delle normative sul diritto d'autore. In questi primi giorni il traffico della rete è crollato, pensate, del 40% in Svezia, a conferma tra l'altro dei dati che indicano il peer-to-peer, quindi lo scambio, spesso, non sempre, ma spesso illegale, di file musicali, di film, eccetera, eccetera, questo traffico come primo motivo di scambio di dati in rete. Bisognerebbe poi anche vedere che cosa dicono i fornitori di accesso che vendono buona parte delle capacità delle ADSL proprio per il peer-to-peer. Ma non c'è solo la Svezia ad andare in questa direzione, è stata approvata anche la contestata legge antipirateria francese. Allora ci colleghiamo con Leonardo Martinelli, che scrive sul Sole 24 Ore da Parigi. Leonardo, benvenuto 2024. Buongiorno. Dunque, che cosa prevede questa contestata legge che, come dicevo, è oramai arrivata al passaggio finale, quindi di fatto è stata approvata dal Parlamento francese? Beh, è una legge molto dura che prevede il blocco dell'abbonamento a internet di chi appunto scaricherà illegalmente dei contenuti dalla rete, che sia musica, film, videogiochi. Non avviene subito questo blocco, nel senso che ci sarà un avviso, un avvertimento che verrà inviato al cliente, questo per 3 volte, dopodiché appunto si procede ad un blocco che inizialmente è di 2 mesi, poi se la persona in questione ci ricasca, nel senso che scarica di nuovo contenuti illegalmente, si potrà andare ad un blocco anche fino ad 1 anno. Tecnicamente chi è che si deve occupare di queste faccende? Diciamo, chi è che deve intercettare il traffico della rete ed eventualmente poi capire che tipo di traffico viene fatto, se è illegale poi diciamo agire nei confronti di chi fa questo illecito? È un'autorità che viene creata appunto dalla legge, quindi non esiste ancora in Francia, avrà come sigla il nome ADOP e sarà composta da centinaia di persone, di esperti, che appunto andranno a caccia sulla rete dei pirati. Si prevedono praticamente 10.000 avvertimenti al giorno, cioè questi avvertimenti avvengono via mail, e quindi l'autorità in questione invierà 10.000 mail al giorno, quindi si tratta di un lavoro notevole. E un'altra previsione è che ci saranno ogni giorno 1.000 blocchi di abbonamenti a internet. Devo dire che poi tutto questo è abbastanza complicato in Francia, perché l'abbonamento internet è quasi sempre cumulato con la TV via cavo e con il telefono. Tra l'altro appunto la legge stabilisce che gli operatori che offrono questo tipo di servizio, nel momento in cui scatta il blocco di internet, possano comunque continuare a fornire il servizio relativo alla televisione e al telefono, e questo tecnicamente apparentemente non è molto semplice. Sì, c'è infatti chi dice che questa legge sarà inapplicabile. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Siamo collegati con Parigi, con Leonardo Martinelli, per parlare della contestatissima legge antipirateria francese. Dicevo, Leonardo, che molti esperti in Francia, ma non solo in Francia, dicono, sostengono che questa sia una legge di principi, ma che poi sia in realtà non applicabile o comunque estremamente difficile da applicare. Sì, è la critica maggiore che gli viene rivolta, e questo non solo, diciamo, da gli internauti incalliti, ma perfino da molti deputati dell'UMP, che è il partito conservatore, il partito di Sarkozy, che in realtà ha presentato questo progetto di legge in Parlamento. Le critiche vengono veramente un po' da tutti, e la critica maggiore non è tanto l'obiettivo, diciamo la finalità della legge, che è comunque di difesa dei diritti d'autore, ma appunto la sua, come dicevi, la sua inapplicabilità, perché sarà comunque abbastanza complicato tenere un ritmo, come dicevo prima, di 10.000 avvertimenti al giorno. Tutto questo comporterà anche delle spese notevoli da parte dello Stato. Poi sono state aggiunte delle clausole anche un po' curiose, se si vuole, perché proprio in extremis, ad esempio, se si scarica la canzone di un cantante che vive in un paradiso fiscale, e ci sono vari cantanti francesi che per non pagare le tasse vivono, hanno la residenza nel Principato di Monaco, allora in questo caso la legge non si applica. Ora si capisce bene che insomma sarà abbastanza complicato individuare anche il cantante che è andato a vivere appunto in un paradiso fiscale, quindi è un testo davvero molto complesso, molto, molto difficile da applicare. Sembra comunque di capire che il dibattito all'interno del Parlamento, comunque all'interno del mondo politico francese, su questi temi legati a Internet sia avanzato, cioè pare di capire che i politici francesi parlano della rete con cognizione di causa, che sappiano di che cosa si sta parlando oppure no. Ma io credo di sì, in realtà è, se vuoi, l'emanazione di un altro dibattito, cioè quello della difesa, dell'incoraggiamento di tutti quelli che sono i prodotti culturali francesi, che siano appunto un film, una canzone. La Francia è un paese che finanzia anche molto questo tipo di attività, e quindi il dibattito sulla difesa del diritto d'autore rientra un po' nel quadro, nel contesto di questo dibattito. Bene, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E finora questi sono i provvedimenti a cui la politica, non solo in Francia ma un po' in tutta Europa e potremmo dire un po' in tutto il mondo, pensa, perché non conosce alternative. Certo, le alternative sono molto difficili da pensare. Della situazione italiana abbiamo più volte parlato nelle ultime puntate a 2024, qua lo stato del dibattito forse è un po' più arretrato, ma certo ci sono alcuni provvedimenti, potenziali provvedimenti, alcuni emendamenti, alcune proposte di legge che fanno ben capire quanto distante sia la politica dal mondo digitale. Si ragiona ancora con schemi vecchi in un mondo che è profondamente cambiato e che chiede quindi nuove regole, come diceva poco fa Lawrence Lessig e come dice da tanti anni. C'è una vera e propria frattura digitale, un digital divide tra la politica e buona parte degli utenti della rete. Questo tra l'altro farà molto probabilmente anche perdere consensi. Un divario come quello che c'è, lo si dice spesso, nelle scuole, tra gli alunni e gli insegnanti e tra imprenditori e molti giovani impiegati, e di questo riparleremo tra poco. Adesso, a proposito del divario e di quanto a volte si tenti di colmarlo, sentite che cosa sta facendo un'azienda negli Stati Uniti, che è un'azienda della vecchia economia, un'azienda ferroviaria, la Burlington Northern Santa Fe Railway, una società ferroviaria che ha dichiarato di puntare su una infrastruttura di telefonia e di messaggistica della Microsoft con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro giovane e dinamico. Visto che il 40% dei lavoratori andranno presto in pensione, questa società vuole attrarre giovani offrendo loro sul posto di lavoro ciò che essi sono abituati a fare a casa. Questo è il cosiddetto fenomeno della consumerizzazione ed è bene che le aziende se ne accorgano, cioè far trovare sul luogo di lavoro proprio gli stessi strumenti che normalmente uno utilizza nella vita di tutti i giorni. Che cosa pensa di questo, dell'attenzione che le aziende e la pubblica amministrazione, anche che è molto importante, hanno soprattutto in Italia verso l'innovazione tecnologica? Ne abbiamo parlato con Umberto Paolucci, che è un'autorità in materia, presidente di Microsoft Italia e vicepresidente di Microsoft Corporation. Partiamo dalla pubblica amministrazione. Le cose in generale, adesso a parte quello che ha fatto e sta facendo il ministro Brunetta, sono accadute abbastanza lentamente, o non sono accadute affatto. Se dovessimo misurare la quantità di software che esiste nel nostro paese, o ancora meglio la quantità di informatica che esiste nel nostro paese, ce n'è la metà di quello che ci dovrebbe essere per quanto riguarda le aziende. Ce n'è un po' di più in proporzione nel mondo delle famiglie, ma nelle aziende ce n'è la metà. Nelle grandi aziende ce n'è come ce n'è negli altri paesi, nelle piccole aziende ce n'è molto meno della metà di quella che c'è negli altri paesi. Quindi questo è un grosso problema che noi abbiamo. Questo è grave. Se lei dice che addirittura le famiglie sono tecnologicamente più avanzate rispetto alle piccole aziende, vuol dire che per la competitività del paese questo è grave. E purtroppo il figlio dell'imprenditore è più bravo a usare questi strumenti di quanto non siano i dipendenti dell'imprenditore, se non l'imprenditore stesso, senza offesa. Spesso, anche qui senza offesa, il giovane, l'allievo è più avanti nell'utilizzo di certi strumenti di quanto non sia l'insegnante, e quindi anche qui va fatto uno sforzo non solo tecnologico ma proprio di motivazione, di partecipazione, di comprensione del fatto che non parliamo di technicalities, non parliamo di software, parliamo di strumenti che servono per fare qualunque professione. Ogni professione è stata trasformata dal fatto che esista la tecnologia dell'informazione, quindi chi la fa nella vecchia maniera non so per quanto può durare a farla, o se gli permettono di farla per molto tempo, magari fa dei danni. Senta, quando si parla di cultura in questo settore, di cultura informatica, perché in Italia facciamo fatica a parlare un po' a tutti i livelli? Se uno va a vedere in Parlamento quello che succede, a volte si spaventa, al di là di alcuni progetti interessanti, come dicevamo prima, quello del ministro Brunetta, però a livello politico, ma insomma a livello di paese, facciamo fatica a parlare di tecnologia, siamo più bravi a parlare di altro. Perché? Credo che ci sia bisogno di più esempi. Credo che non si debba avvitarsi in una battaglia della tecnologia per la tecnologia. Credo che si debba essere concreti, specifici, mirati, efficaci nello spiegare in maniera proprio con dei fatti, con tipo di azienda per tipo di azienda, divisione in un ambito pubblica amministrazione per divisione, che cosa si può fare, quindi far vedere qual è la differenza, qual è lo scenario, no? Come prima e dopo la cura. Se dovessimo ingaggiarci in una battaglia del software per il software, probabilmente la perderemmo, quindi bisogna andare a guardare gli effetti del software, la trasformazione che il software ha consentito e che di fatto ha reso obbligatoria, perché poi chi non vince quella gara perde la gara tout court della competitività, della crescita. Esistono degli studi super consolidati nel corso del tempo che correlano in maniera molto precisa la crescita di un paese, del suo PIL, agli investimenti in information technology. Quindi non c'è discussione, basta farlo, però per farlo bisogna anche spiegarlo. Il piano di government del ministro Brunetta, che si traguarda al 2012, è una bellissima occasione. Mi auguro che si possano trovare i fondi per farlo, o che comunque che i fondi vengano visti come prioritari e quindi recuperati comunque, anche a fronte di difficoltà di bilancio. Si tagliano delle cose, non si tagliano quelli, mi auguro. Se adesso le faccio una domanda che non riguarda il nostro paese, per capire anche che cosa sta succedendo in altri paesi. Se lei dovesse scegliere uno, due, mi dica lei, paesi dove invece stanno succedendo delle cose interessanti, cioè un paese da prendere, non dico come modello, ma da guardare con interesse. Per quanto riguarda l'Europa, i paesi nordici sono stati all'avanguardia su questo tradizionalmente, e non dobbiamo dire che da loro c'è il cattivo tempo, loro stanno più in casa, usano il computer, stanno più online anziché stare nelle piazze al sole. C'è stata una maggiore chiarezza di idee anche in termini proprio di messaggistica da dare a livello delle istituzioni, a livello delle associazioni, e le imprese l'hanno capito e l'hanno fatto. Forse ha funzionato meglio il meccanismo così del passaparola, del far vedere la differenza che si faceva, ma anche paesi, seppure su più piccola scala, l'India si è trasformata nella parte che si è trasformata grazie all'esportazione di software. Mauritius ha l'obiettivo di diventare un grande paese, anche se è piccolo, in mezzo all'oceano, grazie al software. L'Estonia ha dei piani ambiziosissimi, purtroppo alcuni di questi paesi adesso stanno soffrendo per ragioni di valuta, di finanza, però credo che gli investimenti che hanno fatto in capitale umano, alfabetizzato, ingegnerizzato come si deve, siano una buona via d'uscita. E questo era Umberto Paolucci, presidente di Microsoft Italia, vicepresidente di Microsoft Corporation, una autorità in campo tecnologico. E vi ricordo che proprio Microsoft e il Sole 24 Ore hanno organizzato per il prossimo martedì 7 aprile il Forum Innovazione e Tecnologia. Maggiori informazioni sono online sul sito del Sole 24 Ore. Bentornati a 2024, io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che la nostra puntata va in onda ogni sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online. Tutte le informazioni sono su www.radio24.it, potete entrare nelle pagine di 2024 anche per riascoltare le nostre vecchie puntate nel nostro archivio. Se siete appassionati di libri e ancor più di libri digitali e comunque volete capire quale sarà l'evoluzione dei libri nel prossimo futuro, beh, la scorsa settimana abbiamo dedicato un approfondimento proprio agli ebook, i libri digitali. Adesso parliamo di Formula 1, ma di Formula 1 su internet. Da meno di una settimana, cioè dall'inizio del campionato del mondo di Formula 1, è online il nuovo sito internet della Ferrari, www.ferrari.com. Fino a qualche mese fa c'erano più di 100 siti internet, si parla addirittura di 155 che in qualche modo facevano riferimento al mondo della Ferrari, che sono stati concentrati in questo punto di riferimento in rete, quindi un solo sito, ferrari.com. Potremmo definirlo un esempio di cosa si può fare oggi su internet e di cosa internet sarà domani, almeno dal punto di vista dell'intrattenimento, perché questo è un sito con un forte valore di intrattenimento. Il risultato è straordinario per quantità e qualità dei contenuti. È chiaro naturalmente che per un marchio come Ferrari non può non essere su internet ad alto livello, ma certo uno potrebbe anche domandarsi perché un'azienda che di fatto non ha bisogno di comunicare investe così tanti soldi, e qua stiamo parlando di un investimento molto importante di milioni di euro per costruire una presenza su internet da primato. Ne abbiamo parlato con Danny Barr, che è direttore commerciale e brand di Ferrari. La Ferrari in generale vive da due anime. Un'anima è che produciamo le vetture più belle del mondo, e l'altra anima è l'anima delle corse, che fuori nel mondo abbiamo più di 80, 90, 100 milioni di appassionati, di tifosi che ci vorrebbero seguire non solo tramite la televisione. E il sito internet è diventato un strumento molto, molto importante per indirizzare i nostri fan, che non hanno la possibilità di vivere con noi in Italia così vicinamente la Ferrari come lo possiamo fare noi, non hanno la possibilità di andare nei nostri negozi ed acquistare dei prodotti con il nostro marchio, non hanno la possibilità forse di acquistare i nostri prodotti, le nostre vetture. Vuol dire, uno strumento importante è il sito internet che fa vedere il nostro mondo completo in un modo virtuale. Questo sito internet, o comunque la strategia internet di Ferrari, genera o genererà in futuro anche dei ricavi? Speriamo bene. Non lo so ancora. Diciamo che il sito internet in primo piano per noi è un strumento di comunicazione, di attrarre le persone, di farle vivere il nostro mondo, il nostro marchio, le nostre attività. Ovviamente se ci sono delle opportunità di commercializzare, le seguiremo. Comunque è indubbio che la parte di commercio elettronico per voi è importante. Certo, ovviamente, come ho detto prima, tramite i nostri, diciamo, Ferrari Store, che abbiamo un'ampia gamma di prodotti, più di 1000 prodotti, ma siccome abbiamo solo 25 Ferrari Store nel mondo, il sito internet, l'e-commerce, è diventato il nostro store più grande, dove possiamo offrire ai nostri tifosi in Giappone, in Cina e in altri paesi. Certo che è diventato una fonte di ricavi importante. E questa era la voce di Danny Barr, giovane direttore commerciale della Ferrari, che si occupa anche del brand, quindi del marchio. E pensate quanta attenzione, quanti investimenti sono stati fatti negli ultimi anni per proteggere e valorizzare in tutto il mondo il marchio della Ferrari, sicuramente uno dei nomi più famosi e conosciuti al mondo. Come avete sentito, internet è già oggi, ma sarà sempre più anche in futuro, un canale importante per generare nuovi ricavi anche con il commercio elettronico. Questo vale per tutte le aziende, quelle più intelligenti che hanno capito come utilizzare questo nuovo canale di comunicazione, ma vale ancor di più per un'azienda globale come la Ferrari. Dicevamo che si tratta di un sito estremamente ricco di contenuti, fotografie, filmati, presentazioni interattive, videogiochi, un progetto sul quale Ferrari e alcuni partner hanno lavorato per circa un anno sotto la direzione di Giuseppe Cunetta, che è responsabile New Media di Ferrari. Il sito è un po' riduttivo e per cui il periodo di 12 mesi effettivamente noi lo reputiamo una grande conquista ottenuta, nel senso che la ricchezza di contenuti realizzati e prodotti in modo originale, nonché quelli raccolti da varie fonti le più disparate nel mondo per confezionare il nostro portale, è veramente imponente. Parliamo di circa 1600 pagine complessive con un tasso di aggiornamento molto elevato, alcune centinaia di video ogni anno, diversi contenuti testuali al giorno vengono prodotti in modo originale, nonché rotazione sui contenuti più importanti con frequenza quasi oraria, direi. Quindi più che un sito, un canale di comunicazione ongoing, per cui fatto sia di contenuti prodotti e confezionati per essere mantenuti nel tempo, ma soprattutto fatto anche da contenuti in continuo aggiornamento che seguono tutto quello che è il mondo Ferrari e le proprie attività. Ci sono naturalmente moltissime cose interessanti sia per quanto vi riguarda sia per quanto riguarda il pubblico. Quali sono le più nuove, le più innovative? Alcune sono addirittura, potremmo dire, poco web, assomigliano più a film veri e propri. Sì, questa è una sfida che abbiamo voluto cogliere, diciamo, nell'era post Second Life abbiamo voluto un po' reinventare uno standard di fruizione interattiva del web, coniugando insieme il contenuto televisivo, quello del cinema, con l'interattività tipica del mondo del videogame, per cui nel portale si trovano diverse esperienze rich media, così definite, che vanno dalla visita virtuale di Maranello, della nostra factory, che sappiamo essere uno dei contenuti più popolari nel mondo, in prima persona vissuto con i propri occhi e quindi muovendosi liberamente nell'ambiente di Maranello in un percorso ricco di tante esperienze. Da questo all'esperienza delle auto classiche, che possono essere esplorate in dettaglio, quindi scoprire magari i gioielli del passato, degli anni 70, degli anni 60 o delle origini, oppure visitare contemporaneamente la Galleria Ferrari, il nostro Ferrari Store, le nostre vetture più moderne, quindi quelle della gamma attuale. Tutto questo con un mix di cinema, videogame, quindi tipica interattività internet di ultima generazione e chiaramente web. E questa era la voce di Giuseppe Cunetta, che è responsabile dei New Media di Ferrari. Dicevo che il nuovo sito di Ferrari è un esempio di come, di che cosa oggi si può fare su internet per utilizzare molti dei contenuti disponibili. È però necessario avere un buon collegamento ADSL, ma in questo caso, se si vuole offrire un prodotto all'avanguardia, al vertice della tecnologia, non si possono certo fare compromessi sulla banda. Purtroppo lo sappiamo, molti, soprattutto in Italia, non hanno accesso alla DSL, ma sapete che a 2024 parliamo spesso di questo tema, che è un tema, quello della diffusione della banda larga, che ci sta particolarmente a cuore e sicuramente ne parleremo anche nelle prossime settimane. Diverso è il caso di molti altri siti internet che potrebbero tranquillamente perdere buona parte della grafica e dell'interattività, una eccessiva pesantezza che appunto rende difficile per molti italiani navigare in rete, ma non è certo il caso di questo sito internet che appunto, come vi dicevo, vale la pena di vedere. Questo potrebbe essere uno dei casi in cui vado da un amico che ha una buona DSL per vedere alcuni dei contenuti assolutamente straordinari che sono disponibili su ferrari.com. Adesso cambiamo in parte argomento, parliamo un po' più di Web 2.0, quindi della partecipazione dei navigatori alla rete, però parliamo sempre di aziende di grandi nomi, parliamo di Barilla. Che cosa possono imparare le aziende dal Web 2.0 e come possono approfittare della voglia che i consumatori hanno di comunicare tra di loro e con le aziende? Ne abbiamo parlato con Pepe Moder, che è responsabile del settore digitale di Barilla. Significa imparare ad ascoltare il cliente, il consumatore, significa imparare ad ascoltare la gente, le persone, imparare da loro, portare dentro all'azienda un tesoro di informazioni e restituire alle persone questo tesoro sotto forma di quello che loro desiderano, ovviamente tenendo sempre in considerazione quelle che sono le missioni di un'azienda, cioè quella comunque di fare profitti per poter rimanere in piedi sul mercato. Voi avete lanciato un sito internet che è Web 2.0, non so se alla massima potenza, comunque insomma sicuramente non è un sito internet tradizionale. È un progetto ambizioso. Esatto, che cos'è? Si chiama Nel Mulino Che Vorrei e si trova all'indirizzo www.nelmulinochevorrei.it ed è un progetto di Mulino Bianco teso proprio ad ascoltare, a ricevere idee da parte della gente. Queste idee possono essere non solo inviate ma anche votate, quindi si possono votare le idee degli altri. Le idee più votate verranno prese in valutazione da parte di Mulino Bianco e verranno poi realizzate, se ovviamente fattibili. Cioè, mi sembra di capire che internet e questo approccio 2.0 per un'azienda come la vostra sia sicuramente un modo per far partecipare la gente. La gente ha voglia di partecipare, tutti vorrebbero fare l'allenatore di calcio. Ce l'hanno già chiesto. E tutti vogliono fare la propria merendina. Certo. Quindi io farei questo, questa non mi piace, vorrei farla così, così, così. Però sicuramente è anche un valore che entra nell'azienda gratuitamente. È un valore che entra nell'azienda gratuitamente, ma che l'azienda restituisce alla gente sotto forma di idee realizzate. Stiamo parlando di Web 2.0 e aziende, e nel caso specifico stiamo parlando di una novità da pochi giorni in rete, da poche settimane, cioè del Mulino Che Vorrei, una idea di Barilla. Ne stiamo parlando con Pepe Moder, che è responsabile del settore digitale di Barilla. Dunque, tutto può andare in rete, ma esiste una moderazione di questa piattaforma di collaborazione / comunicazione? C'è una moderazione, abbiamo pubblicato una etichetta, ossia un insieme di regole che definiscono che cosa è pubblicabile e che cosa non è pubblicabile. È pubblicabile tutto, quindi qualsiasi tipo di idea, l'importante è che non siano idee che contengano parole volgari, che non siano offensive, che non ledano i diritti della persona, ma tendo, come dire, a sottolinearlo, pubblicheremo in maniera trasparente tutte le idee, anche quelle che oggi sembra che non c'entrino nulla con quello che Mulino Bianco oggi realizza. Questa voglia di partecipare della gente esiste veramente? Guarda, ti dico, oggi il sito Nel Mulino Che Vorrei sta registrando intanto più utenti unici, quindi maggiore traffico del sito tradizionale di Mulino Bianco, che già ne fa abbastanza. Siamo su un livello tendenziale di oltre 100.000 utenti unici al mese e in queste due settimane abbiamo ricevuto quasi 1.000 idee. Questo non è un progetto di crowdsourcing, però in qualche modo ci si... Nasce dal crowdsourcing in rete. Nel Mulino Che Vorrei nasce non solo dalle richieste o dalle proposte che ci arrivano, che ci arrivavano, perché adesso le dirottiamo, ovviamente, avendo questa piattaforma, le dirottiamo su questa piattaforma. Ma prima ricevevamo numerose email tutti i giorni che ci davano suggerimenti, che ci chiedevano non solo informazioni, ma che ci chiedevano come poter essere coinvolti. Perché banalmente abbiamo comunque dei momenti di confronto con il pubblico, con la gente, per fargli provare quando stiamo magari lanciando un nuovo prodotto, oppure per fargli provare il nuovo prodotto, quindi farglielo banalmente assaggiare. Però nasce anche da comunità spontanee. Per esempio su Facebook ci sono oltre 10.000 persone che ci richiedono di rimettere in circolazione il soldino, che è una merendina che adesso non c'è più ma che tanti ricorderanno. Ebbene, nasce anche da lì, nasce anche da quell'esigenza delle 10.000 persone. Più di 10.000 persone. E scusami, peraltro, per come era stata creata ormai oltre le 10.000 persone, quello spazio non riesce più a gestirne. Ci sono gruppi, ci sono più di 75.000 persone che osannano su Facebook, che osannano le scatoline del Mulino Bianco, dove c'erano una volta le sorpresine. Ecco, voi state pensando in qualche modo, perché questo è un problema che esiste, di in qualche modo collegare questa che voi chiamate piattaforma di collaborazione con le piattaforme più utilizzate, sì, una sorta di roaming, sì, dei social, sì, network. Il progetto Nel Mulino che vorrei è un progetto in divenire. Questo nuovo pezzo è un'anteprima che ti do, permetterà, attraverso delle nuove funzioni del sul sito, permetterà alle persone di poter trasportare le idee che hanno inviato, oppure di appoggiare delle idee che ci sono già, attraverso, facendole conoscere attraverso i social media. Quindi poter portare al di fuori del sito Nel Mulino che vorrei, e magari su Facebook, magari su MySpace, magari in altri luoghi, la propria idea, per portarla a conoscenza di un pubblico più vasto e poterla fare votare. Abbiamo detto che chi sa approfittare di questa rivoluzione chiamata Web 2.0, della rivoluzione comunque della rete, può senza intermediari costruire un canale di comunicazione con i propri clienti. A volte il canale di comunicazione può essere monodirezionale, ma se si va sempre più verso quello che gli esperti chiamano Web 2.0, il canale è bidirezionale. Ascoltare e a volte intercettare anche idee molto intelligenti che arrivano dai consumatori. Bene, se ci vogliamo spingere oltre e organizzare addirittura i talenti che la rete offre, possiamo usare internet come canale di reclutamento e collaborazione su uno specifico progetto. Ci sono tantissimi esempi di come si riescono ad organizzare le persone in rete. La politica negli Stati Uniti rappresenta un buon punto di partenza, ma come dicevo ci si può spingere oltre e arrivare ad un punto che gli esperti chiamano crowdsourcing, cioè facendo la rima con outsourcing, cioè dare in esterno la parte del lavoro. Beh, si può addirittura affidare alla rete internet, alla folla che collabora su internet, uno o più progetti specifici. Ci sta lavorando addirittura un'azienda che ha ricevuto un finanziamento da un venture capitalist, quindi ci sono anche finanziamenti che stanno cercando di sfruttare questa rivoluzione per ricavare denaro, per fare business. Un'azienda nata da poco a Pisa, terreno tra l'altro molto fertile dal punto di vista tecnologico. Gioacchino Lavecchia, amministratore delegato di Crowd Engineering, ci spiega che cosa intendono a Crowd Engineering a Pisa per crowdsourcing. Ma il crowdsourcing è, per farla molto semplice, una grande energia, una grande risorsa, una grande forza di lavoro che è disponibile sulla rete, e soprattutto una grande quantità di talenti che sono in grado di collaborare per dei progetti di una complessità e anche di un valore molto, molto alto, potenzialmente molto alto. Per fare degli esempi che sono sicuramente alla portata di tutti, prima ancora che il nome crowdsourcing venisse coniato, tutto il movimento open source, quello che ha dato vita a Apache, ai server web, alla Linux, a tutto il fenomeno del software open source, che adesso è anche apprezzato, utilizzato dal mondo delle aziende, quello è reale crowdsourcing. Sono delle persone, delle grandi menti, dei grandi talenti che vengono organizzati per dei progetti collaborativi che producono poi del reale valore. Altro esempio che utilizziamo praticamente quotidianamente è il famoso Wikipedia. Wikipedia è partito come un progetto collaborativo per costruire un qualcosa che potesse diventare un'enciclopedia online, e alla fine ha dato del filo da torcere a più blasonati prodotti di immensi gruppi editoriali che hanno fatto fatica con i loro professoroni ad andare dietro a un progetto su cui tutto il globo terrestre ha contribuito e ha prodotto un valore a oggi inestimabile. Esistono tantissime potenzialità inespresse in rete, quindi immagino che una buona parte del vostro lavoro sia quella di cercare di organizzare tutto ciò. Assolutamente, i talenti sono disponibili, la forza lavoro è disponibile, la difficoltà per chi fa partire un progetto, ma soprattutto per un'azienda che vuole pensare di utilizzare a proprio fine questa grande energia, questa grande capacità e volontà di contribuire, è appunto come fare, come convogliare questa energia in un processo produttivo. Molti progetti sono partiti, si chiamano Web 2.0, si chiamano collaboration, ma non sono mai riusciti a pieno titolo a diventare integrati col mondo aziendale. Questo è stato il nostro crucio negli ultimi due anni e mezzo, un lavoro di analisi, di disegno, di progettazione che ha portato finalmente a questo pannello solare che ci permette di raccogliere questa energia e metterla a disposizione per le aziende. Attenzione, voi non fate pannelli solari, bensì software per fare che cosa? È un qualcosa che permette di convogliare la forza lavoro, di inquadrarla, di profilarla e di metterla a servizio di processi aziendali. Quindi, più semplicemente, se io ho un customer care, posso un servizio alla clientela, io posso prendere il processo produttivo del customer care, che è prendere le richieste dei clienti, risolverle e fornire una soluzione, tracciare, fare tutte le analisi del caso. Posso prendere la nostra piattaforma, il nostro software, inquadrare tutta una serie di collaboratori in crowdsourcing, e questa piattaforma permette di gestirli conoscendo questa forza lavoro e quindi assegnando il da fare alla persona più indicata per quel tipo di domanda. Noi abbiamo fatto l'esempio del servizio alla clientela, immagino che il software possa essere applicato anche ad altre aree aziendali. Assolutamente, i campi di utilizzo sono i più disparati. Mettiamo anche un libero professionista che fa traduzioni, ha un picco di lavoro, non riesce a star dietro alla richiesta di traduzione, può assumere, tra virgolette, la forza lavoro in crowdsourcing, facendo leva su una disparata cerchia di collaboratori in crowdsourcing che possono prendere parti dei lavori che lui prende in consegna e fare parti della traduzione che poi lui può assemblare e fornire al cliente finale. Quindi anche delle cose che sono abbastanza improbabili, come volumi di lavoro, come tradurre libri in tempi rapidissimi, possono diventare incredibilmente facili se si ha una comunità, per esempio, di traduttori. Noi stiamo affrontando già il mondo delle aziende, stiamo già parlando con le aziende. Ci sono vari campi in cui delle attività che non vengono svolte, che non riescono a essere gestite internamente, soprattutto perché soggetti a dei picchi di lavoro, sono assolutamente compatibili con il crowdsourcing, ovvero se dall'altra parte del cavo, su internet, ci sono delle persone che hanno il tempo e la capacità e la professionalità per fare parte di quel processo è candidato a essere crowdsourcizzabile. Ci saranno sicuramente alcune decine di persone che ci scriveranno per protestare contro questo neologismo crowdsourcizzare. Ma sicuramente in molte aziende, o comunque in alcune aziende, si comincerà presto, si è già cominciato a dire: ah, questo progetto lo possiamo crowdsourcizzare. Così concludiamo questa puntata di 2024. Vi ringraziamo per l'attenzione, ringrazio anche Luigi Burghi in redazione. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. E vi ricordo che è possibile abbonarsi gratuitamente al servizio podcast per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Trovate tutte le informazioni online oppure scriveteci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ancora per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana sempre al pomeriggio nel sabato di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.